Siamo a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, una grande mostra per un artista che da sempre è motivo di ricerca, oltre che di importanza storico-estetica e oltre. Nell'arte abbiamo Marc Chagall, testimone del suo tempo. Siamo con Francesca Villanti, che ringrazio e saluto per averci dato la possibilità di questa conversazione. Buongiorno e benvenuta su Radio Città Fujiko. Grazie a voi, è un piacere. Buongiorno a tutti. Allora, già ho fatto un incipit che prevede tantissimi motivi di approfondimento e conversazione. Cosa troveremo a Ferrara? Quale Chagall si presenterà? Si presenta uno Chagall che cerca di spiegare se stesso in maniera chiara. L'intento della mostra è proprio questo, cioè di entrare nel mondo di Chagall nel profondo e cercare di capire quello che all'apparenza potrebbe sfuggire. Per cui è una mostra che ti consente di conoscere Chagall nel profondo. È un aspetto emotivo che viene sottolineato in dialogo con il visitatore continuamente, insomma. Sì, perché quello che cerchiamo di fare è proprio questo, cioè di accompagnare il visitatore a scoprire questo mondo onirico e allo stesso tempo molto reale. Ed è proprio su questa dualità che ci consente di capire Chagall nella maniera più completa. Entriamo in mostra, con che percorso? Entriamo in un percorso tematico attraverso soprattutto quella che è stata uno dei temi fondamentali per Chagall, che è la memoria, ossia un susseguirsi di immagini della sua Russia, del luogo dove è nato, che tornano per tutta la vita, anche se lui lascerà la Russia negli anni 20 in maniera definitiva, non tornerà più se non poi negli ultimissimi anni. Lui continua a dipingerle, a portarla nel cuore per moltissimo tempo. Ed è un percorso veramente esteso, vedo che è una mostra molto ricca. Quante opere abbiamo? Abbiamo più di 200 opere, per cui è veramente una possibilità di conoscere Chagall in maniera profonda, perché ci sono delle opere eccezionali, bellissime, alcune addirittura mai viste in Europa, che svelano per esempio l'amore per Parigi, l'amore per la musica, il senso del doppio, queste immagini che si rispecchiano e che quindi che ti consentono di entrare anche nella parte più profonda dell'animo umano. Provenienza delle opere? Sono per lo più collezioni private, quindi ancor di più sono opere che non si ha la possibilità di vedere se non in mostre ed esposizioni come questa. Vedo che c'è una sezione alla quale, insomma, noi diamo molta importanza anche come contenuti per i nostri palinsesti, è la decima sezione, La pace. Abbiamo deciso di chiudere in questo momento proprio con un'opera simbolica che è La pace, che Chagall dipinge nel 1949, per cui a conclusione di anni molto duri che lo portano anche in esilio in America, per cui dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo un dolore molto forte, molto profondo che ha segnato i popoli di tutto il mondo, e Chagall dipinge questo una colomba che porta un libro aperto sulle cui pagine si legge La vie e la paix, ossia la vita e la pace, che sono inscindibili, e scrive: sento che il nostro problema oggi è soltanto uno, unirci, radunare quello che resta di noi dopo il disastro, riempire i nostri cuori di nobili propositi. E quindi abbiamo un pochino allargato questo pensiero di Chagall ai giorni odierni. Ci sono realtà parallele, cioè dialogo con installazioni, artisti, altre motivazioni, o è un aspetto che si concentra sul grande Chagall, per il quale ho una grande fascinazione? Sì, la mostra si concentra su Chagall, è una monografica. Quello che proviamo a fare è raccontare, per esempio, dei luoghi che Chagall ha creato grazie alla nuova tecnologia, per cui riproduciamo per esempio le vetrate della sinagoga di Hadassah a Gerusalemme, cercando in qualche modo di trasportare il visitatore in un luogo lontano e facendogli percepire un'emozione che si ha soltanto visitando il luogo. Così come cerchiamo di approfondire il discorso dell'opera, riproducendo grazie grazie a una tecnologia di immagine virtuale aumentate, in cui è possibile ingrandire tutti i dettagli del soffitto dell'opera con una spiegazione, per cui si ha veramente la possibilità di guardarlo da vicino. Io la ringrazio tantissimo per questo approfondimento, ricordando che l'esposizione a Palazzo dei Diamanti di Ferrara sarà fino all'8 febbraio 2026. Le auguro una buona giornata, un buon proseguimento e a presto. Grazie a voi, arrivederci.